Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. It's the most wonderful time. La sente Pellegrini? La sento perfettamente. Questa bella musica. Allora, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera, benvenuto a Vittorio Pellegrini, direttore del Grafene Lab all'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci ha raggiunto questa sera per commentare una notizia sorprendente. La musica che sentite in questo momento, eccola qua. Ecco, pensate, arriva dalla radio più piccola del mondo, una radio con un cuore di soli 2 atomi. La notizia arriva da Harvard, è frutto di un lavoro di ricerca guidato da Marco Loncar e dal suo allievo Limbo Shao della Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate, appunto, di Harvard. Il lavoro è stato pubblicato su Physical Review Applied e apre una serie di nuovi scenari. Infatti, come vedremo, questa micro radio messa appunto ad Harvard può avere veramente moltissime applicazioni. Allora, Pellegrini, intanto ci aiuti a capire come è fatta questa microradio. Questa microradio è una cosa incredibile, è fatta da un diamante che è stato costruito artificialmente, che è una struttura a base di atomi di carbonio, ma sostanzialmente sono stati inseriti in alcuni punti di questo diamante, al posto di 2 atomi di carbonio, sono stati inseriti degli atomi di azoto, che funzionano proprio come difetti in questa struttura cristallina. Allora, la radio amplifica, vede il segnale a radiofrequenza e amplifica questo segnale sfruttando questi atomi di azoto in questa struttura cristallina di diamante. Cioè, normalmente, diciamo, una radio ha un'antenna e questi 2 atomi in qualche modo, diciamo, funzionano un po' proprio come antenna, no? Eh sì, e la cosa incredibile è che lo fanno sfruttando una proprietà quantistica che descriverlo lo stato. Quindi praticamente come funziona questa radio? C'è una luce verde che illumina il diamante è trasparente, non emette luce, ma queste impurità di azoto invece assorbono questa luce verde ed emettono una luce rossa molto intensa. Quando arriva il segnale radio, in realtà il segnale radio va a manipolare uno stato particolare di queste impurezze di azoto che è descritto dallo spin. È uno stato quantistico che è molto difficile da manipolare, però se arriva una radiazione a una frequenza molto ben definita, come quella radio, questo stato di spin viene manipolato e l'impatto che si vede è un impatto sulla luce emessa, quindi questa manipolazione si traduce in una variazione dell'intensità della luce rossa emessa. E questo è il principio di funzionamento. Questa luce rossa emessa viene rivelata, viene tradotta in corrente e viene tradotta nel segnale musicale che abbiamo sentito. E questo appunto apre tutta una serie di applicazioni, soprattutto anche direi in ambito medico. In ambito medico, per esempio, possiamo immaginare di fare una capsula, diciamo, molto, molto piccola che contiene un farmaco che facciamo aprire mandandogli un segnale. Abbiamo bisogno di una radio lì all'interno che riceva questo segnale, no? Possiamo far rilasciare un farmaco, per esempio, oppure interagire con delle cellule che hanno delle patologie particolari. Tutto questo in un sistema estremamente miniaturizzato con dei materiali che in realtà sono estremamente biocompatibili. Assolutamente. Ecco, altre applicazioni, per esempio si pensa allo spazio, perché essendo un diamante questa piccola radio è praticamente indistruttibile, no? Questa è una delle cose più affascinanti della fisica di queste impurezze nel diamante, cioè che sono caratterizzate da questi stati quantistici che sono estremamente robusti, per esempio in funzione della temperatura o della pressione, quindi questo oggetto può funzionare esattamente nel modo in cui lo abbiamo descritto, anche se la temperatura è di diverse centinaia di gradi, oppure a pressioni che sono molto basse o molto alte. Questo appunto perché questi atomi, queste impurezze sono in una struttura cristallina che le preserva dal mondo esterno e dalle perturbazioni che il mondo esterno le può dare. Quindi sono oggetti estremamente robusti. E poi c'è un altro filone importantissimo su cui queste tecnologie si affacciano, che è quello dei cosiddetti computer quantistici, no? Questi computer della prossima era, anche se ormai c'è già qualcosa, che hanno idealmente potrebbero avere una potenza di calcolo incommensurabile rispetto a quelli attuali. Sì, sono basati appunto su questi stati quantistici, hanno delle potenzialità enormi, ma purtroppo questi stati sono estremamente fragili, quindi tipicamente per fare delle operazioni quantistiche dobbiamo andare a temperature molto basse, per esempio, quindi entrare in laboratori, avere dei sistemi molto sofisticati. Con l'elio liquido, insomma, bisogna andare vicino addirittura certe volte allo zero assoluto, no? Ci vogliono attrezzature complicatissime. Ma questo sistema, come dimostra l'applicazione della radio che abbiamo appena descritto, di questa impurezza all'interno del diamante, permette di accedere alla fisica quantistica, agli stati quantistici, in condizioni invece normali, quelle tipiche della persona, della gente comune. E questo appunto è dovuto al fatto che abbiamo un cristallo molto robusto che protegge queste impurezze da perturbazioni che derivano dall'esterno. Va bene, grazie Vittorio Pellegrini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona continuazione su Radio 24.